Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Buongiorno, buongiorno, domenica 16 giugno 2013, 98esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione quasi centenaria per vivere, pensare e agire cruelty free. Hanno collaborato alla trasmissione di oggi Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Roberta Marino e Valentina Reggioli. Si parla continuamente di loro anche perché è un modo di dire, fare da cavia. Ma chi di voi ha visto da vicino una cavia in vita sua? Chi non lo avesse fatto ha oggi la possibilità, attraverso gli occhi e soprattutto le parole di Roberta Marino, nostra corrispondente da Milano, di fare la conoscenza con questo interessante animale. Nella seconda parte del reportage dalla Collina dei Conigli, una realtà di Monza che offre rifugio a conigli, cavie e topolini abbandonati o liberati da laboratori di vivisezione. Per la rubrica Animal House torniamo a occuparci di sperimentazione. Roberta Marino è stata per noi alla manifestazione di sabato 8 giugno, durante la quale a Milano i ragazzi che hanno fatto irruzione nel farmacologico liberando tanti animali hanno dato lettura dei protocolli che riguardavano gli esperimenti condotti proprio sugli animali che sono stati liberati. Per rimanere in tema, nella nostra rubrica filosofica Sostiene Vallauri, il nostro filosofo di riferimento ci esporrà una sua riflessione sull'etica medica. A chi pensa che i vegetariani siano dei pionieri, bisogna raccontare la storia di Giuseppe Garibaldi, generale patriota condottiero, padre della patria, internazionalista, eroe dei due mondi, che non è stato solo vegetariano, ma anche un vegetariano animalista. Ve lo racconteremo nella nostra rubrica Le vite degli altri, piccoli ritratti di animalisti illustri che inauguriamo proprio oggi, durante la nostra 98esima puntata. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Delle cavie che senti in sente fondo, esatto. E sono tantissime, tra l'altro, tutte sì, insieme sono 59, però, e stanno tutte quante insieme, e l'importante è che le femmine siano di più dei maschi per mantenere un equilibrio, perché ogni maschio ha il suo harem, quindi un maschio con 1, 2, 3, 4, 5 femmine vanno d'accordo, c'è un equilibrio. Due maschi insieme potrebbero litigare benissimo, e i maschi sono tutti sterilizzati, mentre le femmine non lo sono, perché la sterilizzazione è ancora molto invasiva nei loro confronti, e soprattutto non avendo tumori uterini diventa, e non cambiando il loro comportamento, diventa più il pericolo che non il beneficio. Di conseguenza solo i maschi vengono sterilizzati. E quindi in questo modo comunque non litigano? Non litigano, vivono serenamente tutti quanti insieme. Certo che se gli metti da mangiare partono tutti, di solito quando vedono uno che mangia partono tutti quanti e vanno tutti quanti a mangiare quella stessa cosa. Quindi se tu hai qualcosa in bocca, quella cosa è sicuramente più buona di quella che c'è per terra. E se lo rubano a vicenda, allora lì magari un po' di bisticci possono anche succedere. Però normalmente vanno molto d'accordo. Sono animali che comunque hanno bisogno di spazio, Anche se poi nella realtà in casa non è che si muovano tantissimo, perché loro sono molto sedentarie, tendono a stare molto nascoste, sono animaletti molto molto timidi, sono delle prede al 100% e non è che abbiano neanche grandi armi per difendersi, non sono particolarmente agili, non sanno saltare e magari fanno un gradino, ecco, però non fanno un salto che farebbe un coniglio. Non sanno correre zigo-zigando, un po' di qua, un po' di là, quindi loro corrono tendenzialmente dritte e quindi sono molto paurose. Se trovano un infratto si infilano dentro e non escono più. E sono anche qui quasi tutte bianche, però c'è qualcuno col pelo lungo, vedo qualcuno colorato, come mai? Le cavie bianche arrivano tutte quante, sono quelle albine, arrivano tutte quante dal laboratorio, mentre le cavie quelle colorate o quelle col pelo lungo arrivano purtroppo sempre da noi domestici. E anche lì la cavia è un animaletto che è particolare, nel senso che intanto ti vede come un dispenser, sono poche quelle che poi instaurano un rapporto con l'essere umano di affetto, tipo ti vengo incontro, ti do i bacini, sono animali che uno dovrebbe prendere solo se ha voglia di stare a guardarli, perché comunque sono uno spettacolo, sono divertenti, sono buffi e sono antidepressivi, perché anche in casa fanno delle scenette che uno li guarda e dice non è possibile. Tipo sbagliano la mira, vogliono entrare in un punto, tu gli fai la casetta, vogliono entrare, saltano ma stanno ferme, non si danno la spinta in avanti, quindi li vedi che ripiombano da dove sono partite e si guardano intorno per dire perché sono ancora qui ferma. Anche loro possono essere più o meno socievoli, più o meno paurose. L'importante è nel gruppo di cavie femmine è avere un maschio. Se io ho un maschio a casa che è spavaldo, le femmine saranno spavalde perché lui fa la prepizza, va e vanno. Se è in casa un maschio fifone, le femmine di conseguenza saranno fifone perché lui non esce dalla tana e loro dicono se non esci tu non esco nemmeno io. E qui faccio magari una domanda difficile, in mezzo a tutto questo mucchio c'è qualcuno di spavaldo che si riesce a riconoscere? Beh no, gli spavaldi ci sono, sono allora intanto Lucio Dalla che è nato praticamente qui, lui è arrivato, la sua mamma è arrivata già con due cuccioli. Quando c'è stato lo svezzamento i cuccioli sono cresciuti e sono stati separati, dopodiché la mamma è stata lasciata libera qui e dopo 20 giorni ha partorito Lucio Dalla e la sorellina. Quindi, Lucio Dalla da casa nasce. Ah, nasce, quando è nato il volontario che ha assistito alla scena l'ha guardato, questa cosina nera che è uscita e dice guarda, guarda, è uguale a Lucio Dalla. Di conseguenza ha detto se è maschio verrà chiamato Lucio Dalla ed era maschio e quindi il nome è stato quello. Lui è spavaldo perché è nato in questa condizione, quindi è nato tra le cavie, è nato libero, non ha mai visto una gabbia, tranne nel periodo in cui doveva essere sterilizzato, perché i giovani raggiungono a 3 settimane la maturità, i maschi, le femmine a 4. Quindi a 3 settimane è stato diviso dalla mamma, è stato sterilizzato e poi per altre 3 settimane è rimasto da solo. Dopodiché di nuovo libero ed è abbastanza spavaldo. Poi ci sono tipo Saponetta, che è abbastanza spavalda, anche lei. C'è anche Scheggia, però da quando è qua è più tranquilla perché lei comunque nel fondo dove gira, se tu lo stai anche pulendo poi come sta a prendere un po' dal panico, fa fatica a saltare nell'altro fondo per scappare, mentre le altre come ti avvicini partono e proprio si disperdono nel nulla. Insomma, e c'è anche un coniglio, come mai? Lui è Jordan, è uno dei conigli che qui da più tempo in assoluto. Praticamente questa stanza, le cavie la dividono con un coniglio che viene lasciato con più spazio in base al momento in cui è arrivato, cioè il più anziano in ordine di arrivo è quello che ha diritto ad avere più spazio. Non è tanto un privilegio, diciamo che sono conigli giganti, per loro la gabbia è veramente una sofferenza anche perché hanno bisogno di muoversi. I conigli hanno una muscolatura delle zampe posteriori che è molto potente e in gabbia è difficile che riescano a svilupparla. Poi ci sono alcune albine che sono più particolari, che hanno dei caratteri, soprattutto i maschi, e ce ne sono alcuni che si innamorano delle coniglie. Tra di loro le cavie raramente le vedi che si baciano o altro, però abbiamo visto scene di cavie che vanno dal coniglio e gli baciano il contorno degli occhi, se lo leccano tutto. Morosita, che in questo momento è in sede in associazione perché non sta bene, ha degli ascessi, è lì con una cavietta e praticamente stanno sempre insieme. Il coniglio, il suo compagno, si nasconde sempre in giro, cerca di fare lo scalatore, pensa di essere uno scoiattolo, mentre Morosita se ne sta bella vicino alla sua cavietta. Vanno d'accordo. C'è un comportamento diverso tra le cavie che arrivano dai laboratori e quelle che arrivano invece dalle famiglie? Dipende. E noi ne abbiamo avuto uno, Edmond Dantès, che sicuramente è stato in una famiglia che l'ha coccolato, perché come lo chiamavi arrivava. Certo, una volta dato il cibo non lo vedevi più. Però tu arrivavi qui nella stanza, chiamavi Edmund, Edmund, e questo e arrivava. Poi gli davi da mangiare e non lo vedi più. Mentre le cavie del laboratorio sono molto più spaventate, non c'è proprio paragone. Notizie, interviste, attualità. Ancora davanti a farmacologia, ancora per abbattere il muro del silenzio. A quasi 2 mesi dall'incursione nel Dipartimento dell'Università degli Studi in via Vanvitelli a Milano, gli animalisti sono tornati per chiedere la liberazione degli animali ancora imprigionati e per svelare cosa accade dietro a quelle mura. Era il 20 aprile di quest'anno, quando un gruppo di 5 attivisti del coordinamento Fermare Green Hill si erano asserragliati per ore nello stabulario, occupando un intero piano della facoltà di farmacologia, con la richiesta di poter liberare tutti gli animali utilizzati per gli esperimenti. Dopo una lunga trattativa erano riusciti a portare via una parte di quegli animali, centinaia di topi e un coniglio detenuto nello stabulario da 5 anni, con l'accordo tacito, ma poi non rispettato dai responsabili dell'università, di poter avere entro breve tempo anche gli altri, giudicati ormai inservibili perché contaminati dagli antivisti e non più identificabili. Ed è di quegli animali che ora rivendicano la libertà. Oltre ai conigli e ai topi però c'era anche altro, c'erano i documenti che testimoniano cosa accade ogni giorno in quegli stabulari, quali sono stati gli esperimenti condotti per anni sugli animali e con quali risultati, protocolli dei quali gli attivisti si erano impossessati e che proprio in occasione di questo nuovo presidio sono pronti a rivelare pubblicamente, come ci spiega Lorenzo del coordinamento Fermare Green Hill tra i 5 attivisti che si erano asserragliati il 20 aprile a farmacologia. Sì, diciamo che è molto interessante leggere questi documenti perché si riesce, attraverso le parole stesse dei vivisettori, si riesce a capire non solo qual è la considerazione degli animali, ma su cosa si basa l'intero sistema della sperimentazione animale nel nostro paese in questo momento. Ad esempio, nelle motivazioni per cui un esperimento deve essere fatto, ricorre moltissime volte questo esperimento alla possibilità di essere, a buone probabilità di essere pubblicato su riviste prestigiose, oppure come alcune motivazioni, alcune giustificazioni siano complessissime e molto articolate, mentre altre si riducano soltanto a 3 parole che sono ad esempio ricerca di base. Quindi invece nella legge con parole molto, cioè si spende con molte parole nel dire ogni ricerca deve essere assolutamente giustificata, descritta nei dettagli per essere sicuri che non sia veramente in alcun modo evitabile. Invece molte ricerche sono ricerca di base, motivazioni, ricerca di base, metodologie e prelievo di tessuti. Quindi bisogna immaginarsi il Ministero che ha ricevuto questo con la casellina spuntata e non è possibile, non esistono altri metodi per fare questa stessa ricerca, per giungere a queste stesse conoscenze, no. E questa semplice firma ha condannato a morte 1200 ratti, 60 conigli, poi su ricerche che abbiamo scoperto essere legate alla dipendenza da nicotina, questo l'abbiamo capito perché cercando il nome della stessa ricercatrice abbiamo visto che tutte le sue ricerche riguardavano la nicotina, quindi la ricerca di base che faceva nel cervello dei conigli riguardavano proprio la dipendenza da nicotina, come poi ha affermato dagli stessi ricercatori in una nota pubblicata dopo la nostra azione. È interessante notare come i vivisettori cerchino di difendersi citando solo le malattie che fanno paura alle persone, cercando di far leva sull'ignoranza della paura della morte ed evitano invece di descrivere quali siano tutti gli esperimenti, quindi abbiamo trovato esperimenti sull'obesità, esperimenti sull'osteoporosi condotti imprigionando in delle scatoline dei ratti che non potevano muoversi e che quindi le loro ossa si deterioravano e questo è considerato un modello per l'osteoporosi, quando oltretutto si sa benissimo che l'osteoporosi nasce dal momento in cui una persona mangia delle proteine animali, quindi anziché dire alle persone se non volete l'osteoporosi rinunciate a mangiarvi gli animali e i loro prodotti, si uccidono altri animali per cercare di continuare da un lato a uccidere gli animali che ci mangiamo e dall'altro ucciderne altri per trovare una cura ai problemi che questo ci comporta. Le ricerche, oltretutto, molte vengono giustificate con ricerche precedenti, quindi dicono, per anni, negli ultimi 9 anni abbiamo fatto questo tipo di ricerca, adesso la rifacciamo cambiando questo piccolo dettaglio nella speranza che questo porti a delle conoscenze maggiori. E una cosa interessante è anche notare come degli stessi ricercatori si siano chiesti quanto questo tipo di ricerche abbia portato dell'avanzamento delle conoscenze. Quindi beh, per fare questo, per dirla in breve, hanno preso delle ricerche di 30 anni fa, che a un breve periodo di tempo, in 4 anni, hanno visto nei 30 anni successivi se quelle ricerche avevano avuto poi degli sviluppi pratici, perché è questo che i ricercatori vogliono. E hanno visto che su 25.000 ricerche pubblicate in quei 4 anni, soltanto 4 avevano avuto dei risultati pratici e soltanto una aveva avuto poi dei risultati che erano stati utilizzati sull'uomo e che avevano portato alla conoscenza di una nuova terapia. Cioè, le conoscenze che arrivano da questo tipo di ricerca sono assolutamente ininfluenti ai fini dell'avanzamento della medicina. Una data scelta non a caso, quella dell'8 giugno, per tornare davanti allo Stabulario. Proprio nella stessa giornata, infatti, in altre città si stanno tenendo iniziative analoghe in risposta ai diversi eventi organizzati dai Protesti Italia, un'organizzazione che riunisce ricercatori, docenti e studenti di facoltà scientifiche, decisi a dare battaglia a chi si oppone alla sperimentazione sugli animali e vuole metterlo in discussione. Una dichiarazione di guerra che a Milano è iniziata proprio il giorno seguente a quello dell'incursione, con un primo presidio a pochi passi dagli stessi laboratori, cui sono seguiti poi attacchi, botte e risposte sui social network e proteste supportate anche, dicono gli animalisti, da organizzazioni come Federfauna e Mario Negri, in difesa dell'industria farmaceutica, e che sarebbero dovute sfociare in un dibattito pubblico proprio all'Università Statale sul tema della vivisezione tra animalisti e proteste, ma annullato poi da questi ultimi. E mentre i ricercatori scendono in piazza per, dicono, una corretta informazione scientifica, gli attivisti rispondono con un secco: gli animali e la ricerca muoiono insieme, sostenendo l'invalidità di una sperimentazione basata sul modello animale. A Francesca, serpe del coordinamento, chiediamo come intendono rispondere alle accuse mosse dai ricercatori di aver distrutto anni di lavoro e a questa loro propaganda pro vivisezione che hanno avviato su larga scala. I protest hanno organizzato anche oggi molti incontri in giro per l'Italia. Noi quello che possiamo dire è che il confronto non può avvenire unicamente e non deve avvenire su Facebook, infatti diciamo che non lo seguiamo da questo punto di vista, non stiamo a fare botta e risposta, non seguiamo la loro politica di discredito, non ci indigniamo quando vediamo come ci prendono in giro, come ci apostrofano. Cerchiamo di fare continuamente ancora il nostro, cioè la nostra attività è quella di continuare con le nostre cose, continuare a portare la voce degli animali ovunque. Non è sostanzialmente cambiato nulla, se non il fatto che sono i vivisettori adesso che devono accettarci come interlocutori. Ma voi vi aspettavate una risposta di questo tipo, che in tanti anni non c'è mai stata, se non sbaglio? Beh, non è che sorprenda il fatto che qualcuno abbia risposto a un'azione del genere, dato che una cosa così non è mai avvenuta in Italia, nel senso che ci sono state delle liberazioni, per lo più appunto da persone anonime che poi se ne sono andate, ma mai una cosa rivendicata così in fondo. Ovvero i settori si sono trovati di fronte a delle persone che non si vergognano di quello che hanno fatto, che comunque non ritengono di doversi appunto nascondere più. E quindi questo è un po' spiazzato tutti e quanti. Noi adesso abbiamo portato la questione degli animali al di là della piccola, insomma, nicchia a cui era prima affidata. Roberta Marino, corrispondente da Milano della redazione di Restiamo Animali. Sostiene Vallauri. You're wrong about virtues of Christianity, and you're wrong if you agree with Sean Hannity. If you think that pride is about... Io sono molto vicino a quei medici che ritengono non probante la sperimentazione animale trasferita sull'uomo, quindi sono anche un antivivisezionista scientifico. Sappiamo tutti che la cosa più scientifica, più probante è sperimentare sull'uomo, ma non lo si fa per motivi etici. Comunque qui si tratta soprattutto dell'aspetto scientifico. Ora, io mi sono preso questo codice di deontologia cominciando dall'articolo primo, il quale dice che il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente codice e delle linee guida, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Io aggiungerei: il medico è tenuto altresì alla conoscenza e osservanza delle norme giuridiche generali che costituiscono il biodiritto europeo e italiano vigente, perché non è giusto che il codice non tenga conto del diritto comune. Poi ci sono gli articoli dal 47 in avanti che si occupano precisamente della sperimentazione sull'animale e sull'uomo. L'articolo 47 dice: il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo. Io aggiungerei: il medico non deve avvalersi di farmaci o altri trattamenti che non costituiscono il risultato di esperimenti sottoposti a revisione sistematica documentata. Questo perché molti degli esperimenti in realtà si fanno solo per inerzia, mentre quelli senza animali devono essere validati molto accuratamente. Io ho dei documenti che dicono che quelli con animali sono ben poco validati. Aggiungerei: devono essere incentivati, in conformità con il biodiritto vigente, modelli sperimentali alternativi al modello animale, perché abbiamo già un diritto che dice che gli esperimenti con animali sono residuali, cioè devi dimostrare che non puoi ottenere lo stesso risultato senza animali. L'articolo 48 viene integrato su proposta della dottoressa Di Giacomo, dicendo che l'informazione al cittadino deve essere garantita da un medico diverso dallo sperimentatore. Tale figura professionale, posta a garanzia del soggetto in esperimento, deve essere istituita nell'ambito del comitato etico per la sperimentazione clinica. Anche questo mi sembra assolutamente da approvare, come è in generale da approvare che il comitato etico non deve essere composto dalle stesse persone che fanno la sperimentazione. All'articolo 49 inserirei: la sperimentazione condotta sull'uomo deve essere preceduta da esperimenti condotti con metodi scientifici rigorosamente validati. È chiaro che noi abbiamo per l'uomo un occhio di riguardo e quindi il rigore già necessario per gli animali si accresce ancora quando si lavora sull'uomo, sui volontari o sui vecchietti abbandonati negli ospedali in modo criptico. Articolo 50. La sperimentazione deve essere documentabilmente, aggiungo, utile per l'uomo. Manca la documentazione. Si asserisce senza documentare. Ancora, deve essere data priorità, secondo quanto stabilito dal diritto vigente, a metodi di ricerca alternativi validati, e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico indipendente. Qui c'è una mia aggiunta, secondo me, cruciale. Non può valere il principio del silenzio assenso. È una frasetta, ma una di quelle che fa vedere che il diritto non è inutile. Oggi voi, per sperimentare con gli animali, dovete chiedere il permesso al ministero, dovete dimostrare che non ci sono metodi alternativi. Ma se il ministero dice sono occupatissimo, dopo un po' l'esperimento si può fare. Invece, in base al principio di residualità, se il ministero non dice niente, non si può fare. Mi pare chiaro che se qualcosa è sospettata di non scientificità e di non eticità, non può valere il principio del silenzio assenso. Una frasetta, ma che cambierebbe tutto. Your religions are all flawed. You're wrong about drug use. When it's not abuse, I hope you never reproduce. You're getting high on the down low. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao a tutti! Per festeggiare l'arrivo del bel tempo, del sole e dell'estate, ecco una ricetta da festa: una golosa crostata alle fragole, ciliegie e pistacchi. È semplice da preparare, non è eccessivamente calorica e vi assicuro vi farà fare una bellissima figura con amici e parenti. Gli ingredienti sono: per la frolla 300 g di farina, 100 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 50 g di olio di semi di girasole e la buccia grattugiata di mezzo limone, mi raccomando, biologico. Per la farcitura, 500 g di fragole fresche, una tazza di ciliegie snocciolate, meglio se quelle un po' bruschine, tipo le amarene, 100 g di pistacchi sgusciati, 50 g di mandorle pelate, un cucchiaio abbondante di fecola di patate, 2 cucchiai di zucchero di canna. Per prima cosa, tagliate a tocchettini le fragole e mettetele in una ciotola insieme alle ciliegie, a macerare con un po' di succo di limone e lo zucchero. In questo modo perderanno un po' della loro acqua. Impastate velocemente gli ingredienti per la frolla, quindi farina, zucchero, lievito, olio e limone, aggiungendo acqua poco alla volta, sino ad ottenere un impasto elastico e omogeneo. Stendete nei 2/3 in una tortiera, meglio se di quelle con cerniera apribile, e bucherellate per bene anche i bordi. Ora tritate finemente le mandorle e i pistacchi. Prendete la ciotola con la frutta, scolatela dallo sciroppo che si era formato, però potete sempre riutilizzarlo per altre preparazioni dolci, frullati, gelati. Vedete un po' voi, ecco, gettarlo è un peccato. Alla vostra frutta aggiungete la fecola, i pistacchi, le mandorle e mescolate bene. Versate tutto il composto sopra la base di frolla e terminate decorando con strisce dell'impasto rimasto. Cuocete la torta in forno caldo a 180 gradi per 35-40 minuti. Mi raccomando, controllate che non si bruci. Lasciate raffreddare completamente prima di servirla. Ciao, alla prossima! Le vite degli altri, piccoli ritratti di animalisti illustri. A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah boy. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Cominciamo da oggi una nuova rubrica di cultura storica. Proporremo dei brevi ritratti di alcuni personaggi che hanno fatto la storia dell'animalismo, o meglio del principio di giustizia esteso a tutti i viventi. Crediamo che andare alla scoperta o alla riscoperta di questi personaggi sia un modo utile e intelligente anche per illuminare il presente e per allargare le nostre stesse idee. Cominciamo oggi con un personaggio forse sorprendente, uno dei grandi padri della patria, quello che forse più di altri ha contribuito all'unità del paese e anche a dare una visione laica, avanzata, progressista della vita di un paese. Parliamo naturalmente di Giuseppe Garibaldi. Rimasero sorpresi dal furore degli isolanti per la cenagria. Giuseppe Garibaldi è stato anche un precursore dell'animalismo. Nel 1871 fu fra i fondatori della Società Protettrice degli Animali. Del contributo dato da Garibaldi all'animalismo, al primo animalismo italiano, parliamo con Francesco Ghidetti, giornalista, studioso di Garibaldi e dei garibaldini. Francesco, in che modo Giuseppe Garibaldi può essere considerato un precursore dell'animalismo? Per dire che Garibaldi è sicuramente un precursore dell'animalismo, anzi un animalista ante litteram, basti pensare a un episodio. Dovete tener conto che Garibaldi è comunque un uomo dell'Ottocento, anzi è l'uomo per eccellenza dell'Ottocento. Bene, nel marzo 1833, quindi 1833, Garibaldi si rifiuta di mangiare l'agnello con l'equipaggio, un equipaggio di una nave che si chiama Clorinda, formato per lo più da sansimoniani, cioè seguaci di quel particolare socialismo che faceva riferimento appunto a Saint-Simon, e che su questa nave che faceva servizio per Odessa lui non mangiò a Pasqua a Bacchio per un motivo molto semplice, perché si era affezionato a questo animale che lui stesso aveva tirato su e che quindi si rifiutò di mangiare. Si parla anche in qualche biografia di Garibaldi del suo vegetarismo. Possibile avere un riscontro storico di questa sua pratica, che forse non fu per tutta la vita, ma sicuramente per certi periodi della sua vita? Certamente, perché Garibaldi fu molto influenzato, ora qui non voglio fare citazioni troppo dotte, ma da due pensatori, Voltaire e in particolare Rousseau. Ora, come noi sappiamo, Rousseau considera la natura come amica, e quindi essendo la natura amica è buona, e quindi essendo buona va rispettata in tutte le sue forme. Quindi c'è la semplicità dei costumi dell'uomo, no? A contatto con la natura, non corrotto dalla ricchezza e dal lusso, e dall'altro l'idealizzazione della sobria vita patriarcale e campestre. Del resto, la famosa Caprera di cui tanto si parla, che lui acquista in parte nel 1855 e poi in toto nel 1864, è praticamente una gigantesca comune dove lui coltiva i suoi fagiolini, era fissato, coltiva i carciofi, coltiva le patate e tutto quanto. Sulla sua tavola non mancavano mai l'insalata, e non solo, ma mangiava moltissime patate ed era fissato col formaggio. Tenete conto che quel tipo di vita lì era un tipo di vita per cui ci si alzava, lui perlomeno si alzava fra le 3 e le 3 e mezzo di notte, beveva quintalate di caffè, sbrigava la corrispondenza e poi dopo si dedicava appunto alla cura dei campi. Tanto è vero che appunto dicono gran parte dei memorialisti, di chi gli stette intorno, che lui mangiasse la mattina alle 10 il pranzo e la cena fosse alle 4 e mezzo. Nel suo rapporto con la natura, nella sua vita caprera, c'è forse anche qualche aneddoto, qualche storia che riguarda la sua relazione con gli animali? Beh sì, quello è fondamentale, la relazione con gli animali. Ad esempio, lui amava molto gli asini, gli asinelli, ne aveva 4, e cedendo alla rabbia, lui era fortemente anticlericale, ne chiamò uno Pio IX come il Papa, un altro Napoleone III, che di fatto era l'imperatore francese che impedì, poi era l'unità d'Italia per un sacco di tempo, Oudinot, il generale francese che annientò con l'inganno la famosa Repubblica Romana del 49, quindi in un certo senso da lì che comincia la trafila Garibaldi nella morte dell'unica donna che lui veramente amò, che era Anita, e un altro Immacolata Concezione. Vi potete immaginare voi che tipo di reazioni ebbe a tutto praticamente l'orbe terraqueo cattolico, in particolare francese. Poi aveva 4 cani. Uno si chiamava Aspromonte, un altro Bixio, un altro Fuan e un altro To. Infine, l'ultima cosa che volevo segnalarvi a questo proposito è anche molto interessante la descrizione che fa nelle memorie del periodo sudamericano. Il periodo sudamericano, come sappiamo, è dal 1835-36 al 1848, quando poi ritorna in Italia, eccetera, eccetera. Quanto è bello lo stallone della Pampa! Le sue labbra non sentirono già mai il freddo ribrezzo del freno, e la lucidissima schiena, già mai calcata dal fetido sedere dell'uomo, brilla allo splendore del sole quanto un diamante. La sua splendida ma non pettinata crinera batte i fianchi, quanto è superbo, raccogliendo le sparse giumenta e fuggendo la persecuzione dell'uomo. C'è anche un episodio legato alla sua morte. Sì, è molto bello, poi ovviamente va preso tutto con il beneficio di inventare, però su questo la storiografia più avvertita tutto sommato è concorde. Allora, come sappiamo, lui muore il 2 giugno del 1882 e c'è anche l'ora esatta, le 18:22, perché viene stabilita dal medico suo preferito, che era Enrico Albanese, medico palermitano. Dal suo letto si vedeva il mare. Lui parla male perché ha un blocco faringeo, però pare che all'apparire sul davanzale delle finestre di due capinere abbia detto: «Lasciatele stare», dice con un filo di voce, «sono le anime delle mie due bambine», erano Rosa e Anita, morte nel 71 e nel 75, «che vengono a salutarmi prima di morire». C'è anche da aggiungere un fatto. Allora, si parla molto di un Garibaldi un po' rimbambito nella invecchiaia perché diventa fortemente anticlericale. Questo non significa che Garibaldi fosse antireligioso, anzi aveva una sua religiosità un po' particolare, poi maturata fra Sud America, girando tutto il mondo, eccetera, eccetera. Però Garibaldi imputava alla Chiesa e al rifiuto dell'evoluzionismo la responsabilità delle violenze e della brutalità a cui erano sottoposti comunemente gli animali. Infatti, lui faceva sempre questo esempio, è riportato da più di un memorialista, quindi credo sia vero. I gesuiti, che come sapete erano diciamo la forza, i più potenti fra appunto nel clero, allora facevano lezioni di gesuiti agli studenti, colpivano più volte un oggetto di metallo con un altro oggetto e facevano ovviamente riscontrare agli uditori come questa azione producesse dei suoni. Per poi concludere, pensate un po' che i lamenti emessi dagli animali picchiati non fossero altro che suoni e rumori, proprio come quelli di un martello, di una campana o di una canna ad organo, per dire. E questo fatto qui, diciamo, a cui ancora di più l'opposizione di Garibaldi alla Chiesa, insomma, intesa come istituzione, ovviamente, non come in senso religioso. Garibaldi amava Anita, che era la sua preferita, ma l'amore durò poco, perché un giorno Anita morì, e per Anita, amen, per Anita che morì. La trasmissione Restiamo Animali e la Casa del Popolo di Settignano presentano la seconda apericena sulla questione animale. Mercoledì 19 giugno 2013 alle ore 20 alla Casa del Popolo di Settignano, apericena e discussione sul tema «Se i mattatoi avessero pareti di vetro, cambierebbe qualcosa?» Fasci di luce su luoghi inaccessibili, dove la vita diventa profitto. La testimonianza di chi nei mattatoi, scantinati della piramide sociale, ci ha lavorato in prima persona. La redazione di Restiamo Animali dialoga con Marco Verdone, veterinario, autore del libro Ogni specie di libertà, e Ivan Tavazzi, attivista animalista, ex operaio in un mattatoio. Ampio spazio sarà dato al dibattito, vi aspettiamo numerosi. Per finire una segnalazione. Da qualche tempo nelle campagne di Firenze Sud sono in corso delle insolite battute di ricerca per rintracciare il sorriso. Una cagnetta che è arrivata da un canile di Palermo per un affidamento, ma è scappata il giorno dopo la consegna. Adesso Sorriso vaga sperduta in zone a lei sconosciute e molti la stanno cercando. Da Palermo sono più volte saliti volontari che l'hanno accolta per 2 anni, nel tentativo di trovarla. Sorriso è di taglia media, manto color beige chiaro, pelo raso, muso scuro, è spaventata e non si lascia avvicinare facilmente. Però si lascia avvicinare dai cani. Potrebbe essere una buona idea cercare di fare seguire il proprio cane da lei. Per info sugli avvistamenti telefonare a Sabrina 393 020 9078. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.